È l'assassino impunito perché non sparge sangue, ma lede un onore, e del calunniato e della sua intera famiglia. E non contemplo neppure il caso di uno che giurando il falso mandi un altro alla morte. Su questo già sono accumulati i carboni della Geenna. Ma parlo solo di chi con bugiarda parole insinua e persuade altri in sfavore di un innocente. Perché lo fa? O per odio senza ragione? O per avidità di avere ciò che l'altro ha? Oppure per paura? Odio. Ha l'odio solo chi è amico di Satana. Il buono non odia. Mai. Per nessuna ragione. Anche vilipeso, anche danneggiato, perdona. Non odia mai. L'odio è la testimonianza che un'anima perduta dà di se stessa, e la testimonianza più bella che viene data all'innocente. Perché l'odio è la rivolta del male contro il bene. Non si perdona a chi è buono. Avidità. Colui ha ciò che io non ho. Io voglio ciò che lui ha. Ma solo con lo spargere di sé stima su lui io posso giungere ad avere il suo posto. Ed io lo faccio. Mento? Che importa? Derubo? Che importa? Posso giungere a rovinare tutta una famiglia. Che importa? Fra tante domande che l'astuto mentitore si fa, dimentica, vuole dimenticare, una domanda. Questa, e se venissi smascherato? Questa non se la fa perché, preso dall'orgoglio e dall'avidità, è come uno dagli occhi tappati. Non vede il pericolo. È ancora come uno ebro. Ebro del vino satanico, e non pensa che Dio è più forte di Satana e si incarica di fare le vendette del calunniato. Il mentitore si è dato alla menzogna e fida stoltamente nella sua protezione. Paura. Molte volte uno calunnia per scusare se stesso. È la forma più comune di menzogna. Si è fatto il male. Si teme venga scoperto e riconosciuto come opera nostra. Allora, usando ed abusando della stima che ancora si ha presso gli altri, ecco che si capovolge il fatto, e quello che noi si è fatto lo si addossa all'altro di cui si teme solo l'onestà. Ancora lo si fa perché l'altro, delle volte, è stato, senza volere, testimonio di una nostra mala azione, e allora ci si vuole mettere al sicuro da una sua testimonianza. Lo si accusa per renderlo inviso onde, se lui parla, nessuno lo creda. Ma agite bene. Agite bene. E di questa menzogna non avrete mai bisogno. Non pensate, quando mentite, come vi mettete un giogo pesante? Esso è fatto della soggezione a demonio, della paura perpetua di una smentita e della necessità di ricordare la menzogna detta, coi fatti ed i particolari con cui fu detta, anche dopo degli anni, senza cadere in contraddizione. Una fatica da galeotto. E servisse al cielo. Ma serve solo a prepararsi il posto nell'inferno. Siate schietti. Così bella la bocca dell'uomo che non conosce menzogna. Sarà povero, sarà rozzo, sarà sconosciuto? Lo è, anzi? Sì. Ma è sempre un re. Perché è un sincero? E la sincerità è regale più dell'oro e del diadema, ed eleva sulle folle più di un trono, ed ha corte di buoni più di quanta ne ha un monarca. sicurezza e sollievo della vicinanza dell'uomo sincero. Mentre disagio dà l'amicizia dell'insincero e anche solo l'averlo vicino dà un senso di disagio. Non pensa chi mente che, poiché presto la menzogna affiora per mille cause, dopo egli è sempre tenuto in sospetto? Come poter accettare più quanto egli dice? Anche se dice il vero, e chi lode lo vuol credere, in fondo c'è sempre un dubbio, mentirà anche ora? Voi direte, ma dov'è la testimonianza falsa? Ogni menzogna è testimonianza falsa. Non solo quella legale. Siate semplici come semplice è Dio e il fanciullo. Siate veritieri in tutti i vostri momenti della vita. Volete essere reputati buoni? Siatelo in verità. Se anche un maldicente volesse dire di voi male, 100 buoni direbbero, no. Non è vero. Egli è buono. Le sue opere parlano per lui. In un libro sapienziale è detto, l'uomo apostata procede con la perversità sulle labbra. Nel suo cuore perverso prepara il male e in ogni tempo semina discordie. 6 cose odia il Signore e la settima la inesecrazione, gli occhi superbi, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita iniqui disegni, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne, e colui che semina discordie fra i fratelli. Per i peccati della lingua la rovina si avvicina al malvagio. Chi mentisce è un testimone fraudolento. Il labbro veritiero non muta in eterno, ma è testimonio di un momento chi imbastisce linguaggio di frode. Le parole del sussurrone sembrano semplici, ma penetrano le viscere. Il nemico si riconosce al suo parlare quando cova tradimento. Quando parla con voce sommessa non te ne fidare, perché porta nel cuore 7 malizie. Egli con finzione nasconde il suo odio, ma la sua malizia sarà rivelata. Chi scava la fossa vi cadrà e la pietra cadrà addosso a chi la rotola. Vecchio come il mondo è il peccato di menzogna e senza mutazione è il pensiero del sapiente in proposito, come senza mutazione è il giudizio di Dio su chi è bugiardo. Io dico, abbiate sempre un solo linguaggio. Il sì sia sempre sì e il no sia sempre no anche di fronte a potenti e da tiranni. E grande merito ne avrete in cielo. Vi dico, abbiate la spontaneità del fanciullo che va per istinto da chi sente buono senza cercare altro che bontà. E che dice ciò che la sua stessa bontà gli fa pensare, senza calcolare se dice troppo e ne può avere un biasimo. Andate in pace. Nono comandamento. Non desiderare la donna da altri. Punto. Gesù passa in mezzo ad un vero piccolo popolo che lo chiama da tutte le parti. Chi mostra le sue ferite, chi enumera le sue sventure, chi si limita a dire, abbi pietà di me e chi gli presenta il proprio figliolino perché sia benedetto. La giornata serena e senza vento ha condotto molta gente. Quando Gesù è già quasi al suo posto, viene dalla stradetta che conduce verso il fiume un lamento pietoso, figlio di Davide, pietà del tuo infelice. Gesù si volta in quella direzione, e popolo e discepoli con lui. Ma un ciuffo folto di bossi nasconde colui che supplica. Chi sei? Vieni avanti. Non posso. Infetto sono. Devo recarmi dal sacerdote per essere radiato dal mondo. Ho peccato e la lebbra m'è fiorita sul corpo. Spero in te. Un lebbroso. Un lebbroso. Anatema. Lapidiamolo. La folla tumultua. Gesù fa un gesto che impone silenzio e immobilità. È uno non più infetto di colui che è in peccato. Agli occhi di Dio è ancor più immodo il peccatore impenitente che il lebbroso pentito. Chi è capace di credere venga con me. Dei curiosi, oltre che i discepoli, vanno dietro a Gesù. Gli altri allungano il collo ma rimanendo dove sono. Gesù si inoltra oltre la casa e la stradella verso il ciuffo di bossi. Ma poi si arresta e ordina, mostrati. Viene fuori un poco più che giovanetto, ancor bello nel volto appena velato dai baffi e dalla barba leggera, un viso ancor fresco e pieno, dagli occhi arrossati di pianto. Un grande grido lo saluta partendo da un gruppo di donne tutte coperte, che già piangevano nella corte della casa al passaggio di Gesù e più forte si erano date a piangere per le minacce della folla, figlio mio, e la donna si accascia nelle braccia di un'altra, non so se parente o amica. Gesù solo avanza ancora verso l'infelice, sei molto giovane. Come lebbroso. Il giovane abbassa gli occhi e diventa di fiamma, balbetta, ma non osa di più. Gesù ripete la domanda. Quello dice qualche cosa più nettamente. Ma non si afferrano che le parole, il padre. Andai. E peccammo. Non solo io. Là è tua madre che spera e che piange. In cielo è Dio che sa. Qui sono io che so. Ma che, per avere pietà, ho bisogno della tua umiliazione. Parla. Parla, figlio. Abbi pietà delle viscere che ti hanno portato, geme la madre che si è strascinata fin presso Gesù e ora, in ginocchio, tenendo inconsciamente un lembo della veste di Gesù in una mano, tende l'altra verso il figlio e mostra un povero volto arso dalle lacrime. Gesù le pone la mano sul capo. Parla, torna a dire. Sono il primogenito e aiuto il padre nei commerci. Egli mi ha mandato a Gerico molte volte per parlare coi suoi clienti e... E uno. Uno aveva una bella e giovane moglie. Mi piacque. Andai anche più che non dovessi. Le piacqui. Ci desiderammo e... Peccammo nelle assenze del marito. Non so come fu, perché ella era sana. Sì. Non so io ero sano e la volli. Ma lei era sana e mi volle. Non so se... Se con me volle altri e si contagiasse. So che lei sfiorì presto, ed ora è già nei sepolcri a morire da viva. E io? E io? Mamma. Tu l'hai visto. È poca cosa, ma dicono che è lebbra. E ne morirò. Quando? Più vita. Più casa. Più mamma. Oh, mamma. Ti vedo e non ti posso baciare. Oggi vengono a scucirmi le vesti ed a scacciarmi di casa. Dal paese. Io sono peggio che morto. E non avrò neppure il pianto della mamma sul mio cadavere. Il giovane piange. La madre pare una pianta squassata dal vento, tanto la scuotono i singhiozzi. La gente commenta fra opposti sentimenti. Gesù è mesto. Parla, e quando peccavi non pensavi a tua madre? Tanto folle eri da non ricordare più di avere una madre sulla terra e un Dio in cielo? E se la lebbra non fosse apparsa, ti saresti mai sovvenuto che avevi offeso Dio e prossimo? Che ne hai fatto della tua anima? Che della tua giovinezza? Fui tentato. Sei un infante per non sapere che quel frutto era maledetto? Meriteresti di morire senza pietà. Oh! Pietà. Solo tu puoi. No io. Dio. E se qui giuri di non peccare più? Lo giuro. Lo giuro. Salvami, Signore. Ho solo poche ore prima della condanna. Mamma. Mamma. Aiutami col tuo pianto. Oh, mamma mia! La donna non ha neanche più voce.